24 mattino. Sono le 8 e 16 minuti, eccoci qua, 24 mattino, 349-238-6666 per i vostri messaggi, l'economia. Soldi e dintorni. Eccola la reduce, sì, la rediviva, a volte ritornano. Con la mimetica. Deborah Rosciani, che avrà firmato non so quanti autografi. Ma naturalmente ieri a San tanti. Siro, era il concerto. Per sì, abbiamo, tutti i 60.000 presenti, qualche migliaio. Speravamo ovviamente di essercene liberate. E invece no. Invece no. Poco più di 2 ore di sonno alle spalle, sono qua. Era lì per prepararsi per San Siro, insomma, giovedì e venerdì. È stato, diciamo, no, così. No. Guarda, direi anche di smetterla di andare avanti con il nostro tema di questa mattina. Che allora oggi c'è un processo interessante, un processo molto un po' strano. Interessante, esatto. Allora, ti ricordi qualche settimana fa, Alessandro, il Festival dell'Economia di Trento? Come no, ecco, certo. Ti ricordi che c'è stato il processo agli economisti? Ma certo. Quindi tutti anche sul quello. Banco degli imputati. 2 su 2, ricordo, incredibile. Tutti sul banco degli imputati e tutti condannati anche, peraltro. Perché? Perché non hanno previsto la crisi economica, perché non hanno saputo intercettarla per tempo, individuarne anche tutti gli effetti deflagranti con cui adesso ci stiamo confrontando. Questa mattina a Roma c'è un altro processo, non è esattamente uguale, è simile, è molto interessante. Sul banco degli imputati finiscono le associazioni dei consumatori. Si svolge a Roma infatti il processo all'informazione consumeristica, mass media, aziende e associazioni a confronto. In cosa consiste questa iniziativa? Stamattina ce lo spiegano i nostri ospiti. Antonio Longo, presidente del Movimento Difesa del Cittadino. Presidente, buongiorno, benvenuto a Soldi e Dintorni. Buongiorno. E grazie per essere con noi anche a Ivo Ferrario, direttore comunicazione e relazioni esterne di Centromarca, che è l'Associazione Italiana dell'Industria di Marca. Ferrario, buongiorno. Buongiorno. Allora, Longo, cominciamo con lei. Intanto, come nasce questa idea, come nasce l'idea di questo processo? Perché adesso, se finiscono sotto processo anche le associazioni dei consumatori, insomma, noi consumatori siamo davvero perduti. Cosa succede? Ma intanto vorrei precisare meglio, ad andare, diciamo, sotto processo non sono tanto o soltanto le associazioni dei consumatori, ma anche, in maniera forse prevalente, la stampa, che parla delle ragioni o delle cronache, diciamo, degli eventi che riguardano i consumatori. Noi siamo partiti 2 anni fa con un'analisi di come la stampa raccontava il processo di liberalizzazione voluto da Bersani, partito, diciamo, con intenzioni, con obiettivi importanti, e poi in verità sotto la pressione delle varie lobby ridotto tutto sommato a poca cosa. Lo stesso ragionamento abbiamo fatto adesso sulla class action. Nel 2008 si è dibattuto praticamente, non dico ogni giorno, ma insomma ogni settimana, ogni mese, su questo importante istituto giuridico che doveva essere introdotto in Italia a tutela dei consumatori. Siamo a metà del 2009 e una decisione presa a dicembre del 2007 con la finanziaria per il 2008 ancora non entra in vigore e non si sa quando entrerà in vigore. C'è un nuovo rinvio in vista, sì. La nostra esigenza di analisi. Quindi diciamo che, ancora per essere più precisi, più che voi sul banco degli imputati e forse più che i giornalisti, ma non per difenderci, diciamo che sotto processo finisce le modalità con cui l'associazione dei consumatori comunica con il mondo della stampa e forse non riesce a far passare efficacemente i messaggi di cui l'associazione appunto si fa portatrice, quindi i risultati non sono poi del tutto efficaci come le associazioni vorrebbero, Presidente. Esatto, il tema è questo. Cioè, noi stiamo riflettendo in maniera anche autocritica sulla nostra debolezza nel fare lobby. Fare lobby cosa vuol dire? Naturalmente con trasparenza, ma con efficacia, incidere sulle scelte del Parlamento, del Governo. Ecco, diciamo che noi riusciamo a fare molta notizia, ma alla fine poi non resta molto risultato. Riuscite a fare molta notizia, anche perché dobbiamo dire che ci sono dei presidenti di alcune associazioni dei consumatori che riescono molto spesso, anche con iniziative folcloristiche a volte un po' stravaganti, a guadagnare molto facilmente le pagine dei giornali e magari anche l'onore della cronaca radiotelevisiva. Altre invece lavorano molto, sono un po' meno presenzialiste, però tutto questo, nonostante appunto la grande presenza dei presidenti, non riesce a portare risultati concreti, almeno non a portare quei risultati che le associazioni ne vorrebbero, perché poi tante battaglie sono state vinte anche, e magari qualcuna ne ricorderemo, Presidente. Ivo Ferrario, Relazioni esterne di Centromarca, ancora buongiorno. Qual è il rapporto delle aziende con le associazioni dei consumatori? Le vedete sempre con il fumo negli occhi oppure ci può stare anche della collaborazione? Lo considerate uno strumento di sana competizione, quello dell'attività appunto delle associazioni dei consumatori che pungolano comunque le aziende a fare meglio o comunque vi infastidiscono a volte? Beh, direi che come rapporto Centromarca, l'associazione che raggruppa tutti i più importanti marchi che operano in Italia, ha rapporti stabili con le associazioni dei consumatori da almeno da più di un decennio, nel senso che per noi è importantissimo che siano le associazioni dei consumatori a dirci come ci vedono, no? Perché se no ci troveremmo un po' a parlarci addosso e a fare semplicemente quello che ci piace fare. Invece pensiamo che nel mercato il consumatore sia un interlocutore importante, quindi stabilmente ci confrontiamo, siamo presenti, siamo stati tra i membri fondatori del Consumers Forum, che è l'organismo che raggruppa proprio le industrie, il mondo dell'associazionismo dei consumatori e quant'altro. Diciamo che non punterei tanto, quindi, come in genere viene fatto anche dalla stampa, sulle contrapposizioni tra industria e consumatore. Nel nostro interesse c'è qualcosa d'altro, che soprattutto, qui vengo al tema della class action, ieri sera per fare un esercizio mi sono messo a fare un bel giretto su internet, ho preso Google e ho utilizzato class action. Cosa ho scoperto? Ho scoperto che grazie a tutto il mondo dei social network l'informazione sulla class action è molto anche diffusa, nel senso che ci si trova addirittura dei filmati della durata di alcuni minuti che possono spiegare, chiariscono concetti, ci sono link, ci sono testi, eccetera. Per cui penso che in generale su questo tema la fascia di popolazione, chiamiamola più evoluta o più tecnologicamente avanzata, è riuscita a farsi un'idea, a recuperare anche da sola le informazioni che servono, basandosi proprio sulle informazioni costruite attraverso questi meccanismi dei social network, che sono assolutamente privi di qualunque diciamo tipo di condizionamento, se vogliamo. Nel caso della stampa, beh, chiaramente io ho letto con attenzione la ricerca e si vede che ovviamente i media economici che hanno come target, cioè come lettore tipo, i manager delle imprese, ovviamente hanno focalizzato di più l'attenzione su elementi che potessero di interesse per questo tipo di interlocutori, mentre la stampa più generalista ha forse spinto di più sugli aspetti di come dire notiziabili per il consumatore, quindi più politica, più effetto annuncio, cose che magari in alcuni casi rischiano di essere come dire un po' far diventare gonfiare un po' troppo la panna. Quindi per arrivare ad una conclusione, Ferrario, come ritenete che sia stato il lavoro delle associazioni dei consumatori per far conoscere anche questo strumento che non è ancora entrato in vigore nel nostro ordinamento e probabilmente ci sarà anche un ulteriore rinvio, dato il lavoro che ha fatto, proprio questo lavoro che ha fatto ieri sera? Ma loro, io penso che debbano assolutamente agire più in profondità da questo punto di vista. Siamo d'accordo con Antonio Longo, forse serve un discorso di maggior attività come dire più concreta, magari meno effetti annunci che poi rischiano di lasciare il tempo che trovano e creare false magari aspettative. Antonio Longo, ritorno da lei, attività più concreta lo suggerisce addirittura l'industria di marca, lo suggerisce addirittura Ferrario. Voi fate tanto però, perché insomma con la stampa comunicate molto, avete tante riviste, avete tantissimi iscritti, forse avete una scarsa presenza come dire fissa in Parlamento che vi aiuterebbe un po' di più ad essere nelle sale del potere, nelle sale dove come dire sarebbe più utile stare? Sì, i nostri punti deboli diciamo che sono due. Il primo è proprio quello di non avere una presenza fissa stabile in Parlamento come hanno le più grandi aziende del paese, le associazioni di impresa o comunque settori economici rilevanti come l'energia piuttosto che il credito o le assicurazioni. E quindi non abbiamo la possibilità magari di individuare per tempo l'emendamento pericoloso che rischia di svuotare una riforma o piuttosto diciamo proporne uno nuovo che potrebbe rafforzare la tutela dei cittadini. Il secondo punto di debolezza è l'Europa. Anche in Europa, nella Commissione europea, siamo poco presenti, poco efficaci. Ecco, su questi due versanti indubbiamente ci dobbiamo impegnare di più. Io ringrazio molto Antonio Longo e Ivo Ferrario per essere stati con noi. Loro tra poco scappano al centro congressi di Roma proprio per questo processo all'informazione consumeristica. Ci sarà anche un verdetto finale che sarà elaborato da una giuria di studenti presieduta dal professor Mario Morcellini, preside della Facoltà di Scienze e delle Comunicazioni dell'Università La Sapienza. Grazie a tutti, Alessandro. Eccoci qua allora, sì. Deborah, Salvadanaio alle 12. Salvadanaio, oggi parliamo di pensioni perché entra in vigore il famoso sistema delle quote da luglio, per cui spiegheremo a tutti gli ascoltatori in procinto magari di abbandonare per raggiunti i limiti d'età il lavoro come funziona la nuova disciplina. Ti sei riappropriata di tutto. Di tutto Salva quanto. Dintorni, Salva Danaio. E non ho intenzione di andare in pensione, caro mio. Chissà quando ci andremo io e te. Ma... Sono le 8:31, ben ritrovati da Alessandro Milan, uno sguardo alle notizie in primo piano. In Iran la domenica è passata apparentemente senza grandi manifestazioni, ma non si fermano le proteste dopo il voto contestato che ha riconfermato la presidenza Ahmadinejad. Sono almeno 10 morti durante gli scontri di sabato, oltre 450 le persone arrestate dalla polizia. Ricordo che ne parlerà anche Giuliano Ferrara dopo il GR delle 9. In Italia urne aperte oggi fino alle 15 per i ballottaggi di 22 province e circa 100 comuni. Si vota anche per il referendum sulla legge elettorale, ma il raggiungimento del quorum, condizione perché la consultazione sia valida, sembra davvero difficile. Ieri l'affluenza alle urne è stata di circa il 16% per il referendum. Si deve raggiungere il 50% più uno degli aventi diritto al voto. Nubifragi, trombe d'aria nelle ultime 36 ore in Italia, Puglia, Lazio e Toscana, le regioni più colpite, si contano 4 morti, c'è anche un disperso, uno skipper scomparso all'isola d'Elba dopo essere stato investito dalle onde in mare. E infine per il calcio, finisce con una figuraccia la Confederations Cup in Sudafrica per l'Italia, travolta 3-0 dal Brasile, 3 gol realizzati tutti nel primo tempo con i brasiliani che hanno colpito anche 2 pali. Era questa l'ultima notizia alle 8:32. E allora, per i vostri messaggi, come sapete, 349-238-6666. Quando la settimana scorsa la Corte d'Appello di Roma ha dimezzato da 10 anni a 5 anni la pena a Stefano Lucidi, che aveva travolto e ucciso in macchina 2 fidanzatini a Roma, uccidendoli, un caso che aveva fatto anche molto scalpore, ricorderete. Ebbene, quando c'è stato questo dimezzamento della pena, i parenti delle vittime, i familiari delle vittime, con grande rabbia hanno parlato addirittura di giustizia sotto zero. Il problema è questo: che in primo grado era stata data una condanna per omicidio considerato doloso, dunque un omicidio volontario, mentre in appello l'accusa non ha retto, la pena è stata dimezzata, è stato applicato l'omicidio colposo. Il problema sta tutto qui, quello di cui vogliamo parlare. È possibile applicare l'omicidio volontario, per esempio, a un pilota della strada, uno che si mette al volante, magari anche alterato da alcol e droga, è consapevole, sa di poter uccidere nel momento in cui si mette al volante così, e dunque è un omicidio doloso, oppure no? Io, tra l'altro, voglio salutare la presidente dell'Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada, Giuseppa Cassaniti Mastroieni. Presidentessa, buongiorno. Buongiorno. Voi, tra l'altro, vi siete costituiti parte civile nel processo, Lucidi. Non è il primo caso, insomma. Si parlò in primo grado di pena mai applicata per la prima volta in Italia. E quando ci furono i 10 anni in primo grado, ricordo ora, dimezzati, leggo dalle cronache di Repubblica di allora: i genitori di Alessio Giuliani e Flaminia Giordani, cioè i 2 fidanzatini uccisi, uscirono dall'aula abbracciando i parenti dicendo: finalmente giustizia è fatta. Ecco, presidentessa, ora che sensazioni ci sono? Ma guardi, noi abbiamo sempre considerato l'opera dei magistrati, di quei magistrati che favoriscono gli imputati, un'opera sostenuta dall'arbitrio e non dal rispetto della legge, perché la legge, diciamo che c'è, no? C'è l'articolo 133 del codice penale che stabilisce i compiti del giudice e dice che il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale, deve valutare la gravità del reato, desumendola dalla gravità del danno, cioè ammazzare 2 persone, secondo lei è un danno grave o un danno minimo? È un danno gravissimo, quindi dalla gravità del danno, dal grado della colpa. Guidare come si vuole, nonostante il rosso passare, poi andarsene e poi è stato trovato per caso, diciamo, il responsabile. Guidare senza patente perché ce l'aveva ritirata dal 2001 questa patente. Secondo me, lei, questo è un grado di colpa minimo e un grado di colpa massimo. Penso che sia un grado di colpa massimo. Il problema è questo, Presidente. Se sia una colpa o se sia un dolo, cioè se sia... Guardi, a me non interessa se sia colpa o dolo. A me interessa che c'è l'articolo 589 del codice penale che parla di omicidio colposo e stabilisce le pene per l'omicidio colposo, e non capisco per quale ragione ragione, per quale arbitrio i giudici si permettono sempre di partire dal minimo nell'applicazione della pena. Finalmente la giudice aveva dato 10 anni, come era giusto fare, e anzi forse erano anche pochi, e quindi rispettava in quel modo i diritti distrutti delle vittime, e adesso un altro giudice si permette di dimezzare la pena. Ma dove siamo? Come considerano loro la legge? La legge c'è, la legge stabilisce fino a 12 anni per morti di più persone, c'è l'articolo 589 che stabilisce i minimi e i massimi di pena, e sono da 2, prima era da 2 a 5 anni per morte di una persona, pene triplicate fino a 12 anni per morte di più persone. Adesso la legge 125 del 2008 ha aumentato anche i limiti della pena, per cui sono non più da 2 a 5 anni, ma sono da 2 a 7 anni per morte. Insomma, a lei non piace, diciamo, questo arbitrio che secondo lei è stato applicato? Sì, c'è l'arbitrio da parte dei giudici, non faccio di tutta l'erba un fascio. No, però no, è per vero. Guardi, io mi ricordo, ho letto tempo fa un parere di un magistrato, Vigna, del procuratore Vigna, il quale diceva: è vero, noi giudici abbiamo preferito di partire dal minimo. Io mi chiedo se la discrezionalità che affida a loro la legge sia preferire di partire dal minimo, oppure debbono valutare il reato come dice la legge e applicare la giustizia in maniera non discriminante, mentre fino ad ora preferiscono il colpevole, aiutare il colpevole e danneggiare la vittima. Io le posso dire che il pubblico ministero che ha gestito il processo di mia figlia Valeria, uccisa a 17 anni e mezzo sul marciapiede di fronte casa, si è permesso di dire: il morto è morto, diamo aiuto al vivo. Il morto era una vittima innocente, una ragazza di 17 anni e mezzo, e il vivo era quel criminale che l'aveva uccisa. Guardi, oppure lei può leggere in alcune sentenze ma che il comportamento, cioè che le conseguenze non sono legate al comportamento dell'imputato, ma per esempio uno ha ucciso 3 persone perché nella macchina ce n'erano 4, come per dire che se ce ne fosse stato uno ne avrebbe ucciso uno. Ma questi sono, ma i giudici si possono permettere cose di questo genere? Presidentessa, la sua posizione, anche come appunto presidente dell'Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada, è molto molto chiara. Insomma, io non so, con noi c'è il procuratore capo di Treviso, che voglio salutare, Antonio Fogliadelli. Procuratore, buongiorno. Buongiorno. Tra l'altro una persona che posso dire non ha mai avuto posizioni anche tenere, se mi si passa il termine. Lei dice i magistrati applicano la legge, ma lei insomma anche più volte ha detto, soprattutto per chi guida magari in stato di ubriachezza, bisognerebbe essere più duri, bisognerebbe avere pene più severe, per esempio la confisca del mezzo, io ricordo, anche se non appartiene alla persona che viene fermata in quel momento ubriaco. Io le chiedo, procuratore, quando c'è stata la sentenza di primo grado di 10 anni, il fratello di Stefano Lucidi ha detto: è vero, se ha sbagliato deve pagare, però non è che mio fratello è uscito con un coltello in mano volendo e sapendo di uccidere qualcuno, è successa una tragedia, certo, ha avuto una colpa evidentemente. Ecco, qui sta il nodo. Guardi, io ho sentito la dichiarazione della presidentessa e devo dire che rimango un poco umiliato e sorpreso del fatto che in questo paese, dove tutti i problemi di carattere sociale di vario tipo eccetera finiscono poi con l'essere addossati in un certo senso alla magistratura, o che è troppo severa o che è troppo tenera. In verità non è proprio così, questo significa un'arbitraria semplificazione della questione. La circolazione stradale è divenuta fonte di continue tragedie. Quando venne concepito il nostro codice, si pensò a questo omicidio colposo, si pensò ad una figura di reato dove non c'è la volontà di uccidere naturalmente, ma c'è una imprudenza, una imperizia, eccetera, eccetera. Il problema della circolazione ha posto delle questioni assolutamente nuove, e cioè quella del conducente che si mette in una condizione tale dove il rischio di nuocere agli altri diventa talmente elevato da rappresentare quasi la volontà. Qui siamo in presenza di quello che mi tocca essere un attimo tecnico, di quello che tecnicamente viene definito il dolo eventuale. In altre parole, io agisco nella consapevolezza che potrei uccidere e accetto questo rischio. E quindi si dice, si fa questo passaggio. Dolo eventuale, insomma. Il cosiddetto dolo eventuale. Ora, nella modifica dell'articolo 589, quindi col forte inasprimento delle pene, indagine, non si è fatto questo passo, si è mantenuti nell'ambito dell'omicidio colposo, però aggravando enormemente le pene proprio in considerazione del fatto che la colpa in questi casi assume un grado talmente elevato da meritare una pena. Però procuratore, aggravando molto le pene, adesso io non vogliamo essere forcaioli, ma voglio dire, la presidentessa ha anche invocato, insomma, 5 anni, ci sono 2 ragazzi che sono morti, 5 anni, ripeto, non siamo qui, voglio dire, a fare i conti, diamo 20 anni, certo, buttiamo 30 anni, però è chiaro che questo è, però bisogna anche accettare l'idea che è giusto lottare per l'affermazione di determinati principi. Anch'io sono d'accordo, sono da anni, non so quanti, che mi batto continuamente per una adeguata repressione e quindi per una adeguata deterrenza contro coloro che producono queste tragedie che sono assolutamente inaccettabili. 6-7 mila morti all'anno sono una peggio di una guerra, non la possiamo accettare, sono il primo a dirlo. Il problema è che dobbiamo fare una serie di riflessioni e dire, e soprattutto un'altra considerazione, poi io per quanto mi riguarda posso dire di avere finito, l'omicidio volontario, cioè quando noi cadiamo o meglio affermiamo il principio della volontarietà del cosiddetto dolo eventuale, è evidente che a quel punto le assicurazioni non pagano più. Occorrerebbe però non solo inasprire le pene, ma anche prevedere delle sanzioni molto gravi. Ad esempio, e faccio soltanto un esempio, colui che ha agito in questa maniera, colpendo e uccidendo più persone a causa del suo stato di incapacità dovuto all'alcol e agli stupefacenti, non potrà più avere la patente per tutto il resto della sua vita. Ecco, questa è una posizione, per esempio... È una posizione molto molto dura quella di, cioè un caso del genere lei ritirerebbe la patente per sempre. Sì, ma lo dico nel senso che occorre, perché questa è l'esperienza che me lo insegna, occorre che nelle persone, nel cittadino, ci sia una effettiva, grave paura delle conseguenze di chi si pone in determinate condizioni. In altre parole, riaffermo la parola che ho appena pronunciato, la deterrenza. Occorre essere sufficientemente deterrenti, altrimenti cosa succede? Che siano irrogati 5, 3, 10 anni, la verità è che nel nostro sistema penale, che non hanno inventato i signori magistrati, ma che è stato voluto dalle politiche. Politiche, in definitiva il carcere non sarà più tale, perché tra sconti, buone condotte, indulti eccetera, poi alla fine lo stesso carcere perde di efficacia. Questo sì. Presidentessa, per concludere, le cifre sono quelle purtroppo, 6-7 mila morti all'anno, insomma, sulle nostre strade, purtroppo una guerra non si può dire neanche sottaciuta, sono usciti libri adesso, se ne parla, eppure lei è qui a denunciare ancora una volta che, insomma, le vittime sono considerate, o i parenti delle vittime, molto meno di chi invece è dall'altra parte, insomma, sul banco degli imputati. Comunque guardi, io conosco il dottor Foiadelle, ne apprezzo proprio il garbo, l'equilibrio eccetera, ma non condivido questa sua comunicazione, nel senso che ci deve essere la deterrenza della, la pena deve essere deterrente, e poi purtuttavia, insomma, si dice che l'omicidio colposo insomma non si può trattare in modo adeguato, perché la legge, secondo me, ce l'abbiamo, e secondo me sono i giudici che non la applicano in maniera adeguata e dovrebbero tenere conto dell'orientamento che ha dato il legislatore, perché la legge 125 del luglio 2008 prevede l'incremento delle pene, per cui se uno guida in stato di ebbrezza al massimo non sono più 12 ma sono 15 sì. anni, e c'è anche scritto che le aggravanti nel caso di guida in stato di ebbrezza non si equivalgono con le attenuanti, e che l'assenza di precedenti condanne non può essere, per altri reati insomma, non può essere l'elemento che insomma, che faccia poi applicare le attenuanti. Quindi l'orientamento del legislatore è chiaro, anche perché dobbiamo uscire da quella dimensione che ci è stata appioppata, che la nostra civiltà è ridotta a una poltrona Bottiglia, cioè noi non siamo capaci, quando dicono questo, di distinguere tra ciò che è valore e ciò che non è valore, va contrastato. Allora, io su questo vi devo fermare, Presidentessa, no, è stata molto chiara, devo andare a dare le informazioni sul traffico, il tempo è un po' tiranno. Vi ringrazio, insomma il tema è molto molto sentito, purtroppo sono molte le persone che vengono coinvolte, se è vero che sono 6-7 mila le vittime all'anno. Giuseppa Cassaniti Mastroieni, Presidentessa dell'Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada, la ringrazio, così come il Procuratore Capo di Treviso Antonio Foiadelli. Io devo andare al traffico, prima voglio salutare, solo se ci sente, e poi sono subito da lui. Salvatore Cancemi, ci sente? Pronto, sì. Da Salvatore Cancemi, eccoci qua. Eccoci, adesso allora mettiamo a posto l'audio, lei è un po' distante, lei è per mare, ma tra poco siamo subito da lei. Allora, le 8:49 minuti, c'è ancora Salvatore Cancemi, eccoci qua, ci sente? Sì, la sento. Perfetto, lei è capitano del peschereccio 22 di Mazara del Vallo, dove si trova in questo momento? Attualmente siamo nel Mare Libico, circa 50-60 miglia a nord-est di Tripoli. Nel Mare Libico. Senta, Salvatore Cancemi, lei doveva essere venerdì a ritirare un premio che non ha ritirato. Adesso spieghiamo perché lei ha ottenuto e ha ricevuto questo premio. 28 novembre scorso, Lampedusa. Ci racconti cosa è successo? La racconto in sintesi. Eravamo in porto a Lampedusa per causa maltempo, un maltempo di grigio, grigio levante, e allora tutti i pescherecci abbiamo deciso di andare in porto a Lampedusa perché il tempo si faceva molto grosso, e allora con questa direzione, nella zona che eravamo, avevamo bisogno di andare ridosso per andare a salvare la nostra vita, anche se siamo un peschereccio, diciamo, abbastanza all'avanguardia e grossa. Siamo arrivati a Lampedusa alle circa alle 16, abbiamo attraccato la barca con parecchie cime perché il tempo si era dato veramente al brutto, proprio al brutto, una tempestata c'era. Verso le ore 18, verso le ore 18 circa, eravamo un 20 pescherecci là nel posto della Lampedusa, è venuto il comandante del circomare, di circomare Pantelle Lampedusa. E c'è questa situazione in giro, c'è un barcone di circa 300 uomini alla deriva, non alla deriva, cioè che governavano mare in caso di maltempo. Dice, voi me la sentite fare una cosa di questa? Cioè, comandante, il comandante... Lì per lì non ci credevo, diciamo, a questo tempo è possibile che una barchetta ancora di questa dimensione che si trova in mare mare, poi noi siamo in posto, come facciamo? Cioè, comandante, mi sento. Sì, la sento. Allora, vi hanno chiamato dicendo c'è un mare forza... Quanto era il mare? Forza? Mare forza 7-8 da grecale. Mare forza 7-8 da grecale. C'erano una barca, evidentemente, di migranti che era senza controllo, e vi hanno detto, ve la sentite di andare a salvarli, andare a prenderli? Sì, sì, perché in mezzo della capitaneria fare deposto e con punto a queste pesche del circolare risulta molto piccoli, non hanno scafo, quindi con questo mare era proprio impossibile per loro uscire. Per noi che siamo abituati a con questi tipi di vento e di mare, c'è stato un problema, però davanti a una domanda di così non abbiamo fatto altro che metterci a bordo i militari, 4 militari della capitaneria della nave Mazzinghi, della guardia costiera nave Mazzinghi, e abbiamo deciso di prendere il mare pur sapendo che fuori c'era una tempesta con mare alti 8-9 metri, rapidi venti 80-90 km all'ora, quindi siamo usciti in mare a rischio di mettere la nostra vita. Noi eravamo in salvo, diciamo, al porto della Lampedusa, siamo usciti fuori per andare a salvare gli altri pur mettendo a rischio la nostra vita, perché il mare è molto grosso. Certo, e quindi siete arrivati sul posto, avete trovato questi migranti? Siamo usciti un 4 pescherecci, di cui una si è appena subito fuori dal posto, due onde anomale, l'hanno messo a rischio di capovolgersi, e se ne è ritornato di nuovo a Lampedusa perché è troppo grosso il mare. Poi la posizione dove era l'ultimo avvistamento era circa 15 miglia a sud-sud-ovest di Lampedusa, quindi per andare all'ultimo avvistamento noi dovevamo andare con un mare di traverso, quindi era ancora molto più rischioso. Siccome la posizione era quella là, noi dovevamo fare quella rotta, andavamo su un mare di traverso, quindi ogni colpo di mare a noi ci metteva in difficoltà. Certo. E le dico pure che qualche ragazzo della motocicletta ha avuto un attacco di panico che voleva essere andato a lasciare. È una cosa normale, però. Comandante, però, per venire al motivo del premio, lei sostanzialmente siete usciti, ce l'avete fatta tra mille traversie, tra mille difficoltà, e avete, possiamo dire, salvato la vita a 300 persone. Sì, sì, e poi il problema è metterla a bordo, poi, perché con questo tempo è un altro problema metterla a bordo. Immagino, lei per questo ha ricevuto un premio dall'Alto Commissariato per i Rifugiati dell'ONU per avere salvato 300 vite. Perché a questo premio? Lei però a questo premio non c'era la premiazione, ha mandato chi? I suoi figli? Ho mandato due miei figli che sono all'Università di Firenze, perché io ho emotivo, siccome dipendo dall'azienda e devo dare, sono dipendente, il posto che occupo non posso lasciare un peschereccio così a terra. E allora ho dovuto rinunciare, e malgrado tutta la mia disapprovazione. Ma lei non si è mai posto una domanda quel giorno, cioè col mare forza 7-8, dire: ma guarda che se io esco fuori con questo mare rischio veramente di lasciarci la pelle? Non se perché le regole del mare sono quelle di salvare una vita comunque. Sì, sì, io questa domanda me l'ho fatta dopo che sono uscito, che ho visto che il mare era veramente, però davanti a un fatto di questo, a vedere una situazione di questa, anche se poi all'ultimo disperavamo di trovarle vive, è stato il cuore per farci andare fuori, va. È stato il cuore. Ma senta, di questi migranti 300, lei sa che fine hanno fatto? Cioè li ha riportati a Lampedusa poi? La mattina dopo le ho portate a Lampedusa, le hanno portate al centro accoglienza, mi sono sentito con qualche ragazza nigeriana e dopo un mese mi sono informato e si trovavano ancora a Lampedusa per accertamento, non lo so. Che devo dirle, comandante? Voglio dire, di questa storia non se ne è saputo praticamente niente fino a pochi giorni fa, ma insomma lei sentiamo anche le radio come possiamo dire, voglio dire, le vorrei chiedere anche a lei, in conclusione, da uomo di mare, che ne pensa di tutta questa discussione? Respingiamo, accogliamo, prendiamo? Allora, io intanto in questa situazione, io penso solo, se capita un'altra volta lo rifarei di nuovo, perché poi una cosa mi ha riempito d'orgoglio, perché abbiamo messo 300 a bordo senza incidenti, senza far nessuno farsi male, che è una cosa rara, perché si poteva capovolgere, capovolgendo, se già succedeva la tragedia, l'ennesima tragedia dei 300 ragazzi, che poi la media di questi ragazzi erano da 20 ai 30 anni, quindi erano tutti giovani, ma poi quello che ne penso è che per me non c'è né distinzione né di razza né di colore, per me siamo tutti esseri umani, abbiamo le nostre religioni, abbiamo le nostre leggi, però quando c'è bisogno di aiuto, per me non c'è distinzione di razza né di colore. Io, guardi, la ringrazio. Devo dire, vogliamo ricordare, insomma, il comandante Salvatore Cancemi, che è a bordo del 22 di Mazara del Vallo, in questo momento sta incrociando nel Mar Libico, insomma. Quindi, ecco, il collegamento è stato, l'abbiamo fatto anche con un satellitare, magari era imperfetto, però si è capito il senso. Io, comandante, la ringrazio. Insomma, mai premio fu più meritato. Questo è il mio modesto parere. E la lascio, insomma, al suo lavoro. Tra il 27 e 28 novembre scorso salvò il comandante 300 migranti che erano in balia delle onde, mare forza 7, forza 8 di Grecale, al largo di Lampedusa, ovviamente. E ha ricevuto un premio per aver salvato queste vite umane dall'Alto Commissariato dell'ONU. Complimenti, io dico solo così, comandante Salvatore Cancemi. Concludiamo tra poco Giuliano Ferrara sull'Iran, e in redazione Alessandro Marcotulli, Laura Marchesi, Carmelo Lauricella in regia. Ci sentiamo domattina.